3, 4, 5. Biondo, ma perché te giraste? A contare fino a 10, capiste? Fino a 10, a così no, ci avevamo tempo a mocciarene. 1, 2, 3, 4, 5. Minchia, ma non si può giocare da così! Non ti girare! Sei babbo, babbo peasso, sei cretino. Non puoi giocare con Noaci. E Noaci, gente cretina, non ne volevamo! Me. Fu una votata roa che me cucino o ton terra e ci ficinesce ro sangoro naso. Da 2 giorni non ho chiuso per mesi di dirmi qualche cosa. Magari mi salutavano puro. Ma io ne che ho capito perché mio cucino ci rette nata stata. Mischino, Vito. Mi faceva quasi pena. Se avesse saputo picchi mi girava, forse tutto questo non avesse successo. Disgraziato! Venecca, venecca, disgraziato! Ma chi paitori, o diavolo? No, io con te non c'è campo. Non c'è campo, venecca, che se ti piglio te sminno, te smenno, te scanno. Venecca, o codo, disgraziato, disgraziata! Cusci, ma tu ti ricordi? Io mi ricordo, mi ricordo. Certo, un poco magari mi scantava, perché se Tomaci, che poi fosse mia zia, t'avesse pigliato, t'avesse fatto viriristiddi. Ma tu no, tu no, tu i cui sì. E io niente, io in mezzo ai cosci di mia magica pensava, corre Cusci, corre. Non ti fare pigliare, biondo! Eccoci. Ma per chi fa così? Ah, così come? Ma perché conti fino a 5 e poi ti giri? A contare fino a 10, capiste? Fino a 10! Che a testa poi a tanto muro, poi ti giri e con voce di testa dici, acco piglio piglio! Ma io a birre non è tutto a mucci. Ma perché, biondo? Non so io cara così! Ma se quando io mi giro poi non ti trovo più. 1. Rui, 3, 4, 5. Io e mio cugino, quando eravamo nichi, ne facevamo di tutte colore. Un momento più bello, però, era quando Idro pigliava un motorino e io taleava. Idro mi si avvicinava e diceva, ma chi ci da lì, questa faccia piatosa a chiana? Mica ero contento, manco tempo racchianari, che Idro paitteva subito come un fulmine, così, a leggio che mi scanto. Poi mi lasciavo prendere, ci lasciavo i cianchi, aprivo le braccia e il vento che mi sbattava davanti a facci mi faceva sentire forte, forte, fortissimo, e mia cucina mi diceva, tenete, cacaremo. Poi pure Idro si lasciava ire e gridava con mia, vociava con mia, cantava con mia, così, così, io sogno qua, io sogno qua, io sogno qua. E quando avremo a parlare di cose serie, ne nevo mammari. Cusci, onde stiamo enno? A mare, a gettare a mare. E questo voleva dire che c'era successo qualche cosa, che forse lui mi doveva dire qualche cosa, che forse io avevo fatto qualche cosa. Non lo so, va! Mi mettevo monta la sabbia, testa e peri, per e testa. Alle volte io manco mi calcolavo. Si pigliava un pezzo di legno e si metteva a disegnare in ta sabbia linee, curve, lettere. Beh o no? Ma secondo te a chi se che so? E così, che so? Due occhi, sì, due occhi. Beh o no, ma quando mai? Chi se su due minne? Ma beh o no, ma tu ne veniste mai in minne? No. E certo, e che tu puoi venire in mente, ah, Bruno, ah, ti piacesse venire in mente, ah, certo che su bello in mente, Bruno. Forse io capì, perché mia madre fece un figlio solo. picchia a combattere con figlio asino è facile, a combattere con più figli asini è l'esaurimento. Tomaci invece fici 5 figli, uno più betto in auto, tutti nivori con l'occhio nivori. Tu mia però si più betto di tutti. Pure mio padre si stancò di mia, se ne andò presto. Una volta, mentre eravamo assettati per mangiare, mi disse: «Bionno, com'è sta pasta, eh?» Risponde a tuo padre: «Come?» E mi rette una boffanta alla testa che mi fece nescire tutta la pasta che aveva a mucca. Io tagliai in tall'occhi e ci disse: «Papà, buona è!» E tu si sostituisse in io. Forse la pasta non c'era piaciuta. Si stancò presto di mia e se ne andò. Io, mo' essere apposta, va, per finta. Io mo' ricordo. Avevo 12 anni, ma mo' ricordo. Quando mo' essere mise un tolettino ro' nonno e quando l'altro si andava a mangiare in ta cucina, io mi ci cuccai di sopra di longo e longo, mi avvicinai in ta ricchia e ci dissi: «Papà, ma perché te ne vuoi ire? Arresta un altro poco, te prego. Io ti prometto che faccio bravo, io ti prometto con te faccio più vregognare di mia. Resta.» Poi mi avvicinai in ta bucca che vi ha arrestata petta, come se io volessi dire ancora qualche cosa. E io ho usato sentia. Non era molto. Faceva finta. Soffocato rinciabara, Moisse, di sicuro. Non ce la faceva più a combattere con mia. Amore, Bionno, c'è chi raccosti a pestare tuo padre? Picchi, come sono? Con sti capiti? Ma venne qua, Bionno, c'è che ti faccia scrimanto mia, insomma. Mico, sì, ma che ciauro che fa sta brillantina ro papà. Certo che si senna d'una, si so sare moito e se incazza. E poi te pettinaste tu, tutti lui davanti allo specchio. Io, Bionno con gli occhi azzurri, e tu? Nivoro con gli occhi nivori. Diversi. Uno, due, tre, quattro, cinque. I film mi dicevano tutte rappresse a me cugino, eh? E poi tutte belle, eh? A me mi piaceva sta cosa. E poi comandava a tutti. A mia non mi piaceva di comandare. A mia mi avessero tagliato male, già mi tagliavano male. Tagliare male significa tagliare con l'occhio toite, per traverso, come se tu fossi un schifo la terra, va? Mio cugino, quando mi tagliava ritto un tall'occhi, come se mi volessi dire arrosbigliati, come se mi volessi scippare di vincia un respiro. Io mi avvicinava e utagliava e ci diceva: «Ma chi ci da lì?» E ne mettevo a ridere. Così, ma perché non hai un'altra femmina così? Ah, perché, Bionno, perché? E perché, Bionno? Perché tu sì, Bionno, con gli occhi azzurri e i femmini ci piacciono chi di nevole con gli occhi nevole. Mi ragione hai. Rosy! Vieni qua, chiamo, fa un pompino. Ah, non aspettavo altro. Ce l'ha fare pure o Bionno. Che mi va a fare? No, zitto, te Bionno c'è. No, così. Io mi affronto, pittate. Ma zitto te, cala teste cavo, se. E conta fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Io e me cucino camminavamo sempre in semmola. Iggio però un passo avanti a mia, sempre tiso. Alle volte mi diceva di aspettarlo da una parte perché io dovevo parlare con dei picciotti di cose serie. Allora io mi assettava e l'aspettava. Io taleava di lontano. Poi però una volta uno di picciotti di da compagnia si avvicinò e taleandomi con l'occhio i toit mi disse: «Bionno, tu a ringraziare a tuo cugino, perché se no, a chi dico Mattia, come? Biondo con gli occhi azzurri, ma che fa, mi pigli per fissa? Cretino, babbasunato, babbo, scimunito la gebbia tu. Nascistere in culo, tu, nascistere la parte sbagliata. E per fortuna che pittia tua madre si piglia un poco di pensione, perché solo così ci può campare. Io quella cosa non l'ho detta mai a nessuno. Mai. Corri! Corri, corri, cuci! Corri! Tenete forte! Un ne sta muovendo cuci! A mare! A gettare in a mare! Picchita! A parlare! Di cose serie, no? Perché mi do la testa! Sento freddo e accomognati, Bionno! Domani a me mi viene una cosa, Bionno! Io domani me ne vaio. Unne? In una grande città. Mi... è lontano, lo saccio che è lontano, ma io qua non ci posso più stare. Vado a fare un concorso. Mi è lontano e non ci posso venire pure io a fare sto concorso. No, no, Biondo, tu non ci puoi venire. E perché? E perché? Perché? Perché non ci posso venire? E perché, Biondo? Perché? E perché sei Biondo con gli occhi azzurri? E ne mettevo a ridere di una risata che però a mia mi faceva venire i chianciri. Bionno, tu da stare qua vedi un socco terogno così, che faccio con chi sta una pistola e che ci faccio? Niente, quando qualcuno t'insulta tu spara. No, ma io non saccio sparare, io non saccio usare così. E non ti preoccupare, Bionno, c'è. Vuoi dire che chiutai di ti insegno? Quando ero nico e mio padre mi rimproverava, io mi nevo solo in la mia camera e mi metteva a testa sotto, a così, per all'aria a testa sotto, come se i capelli potessero sfiorare un pavimento, come se i piedi potessero toccare un tetto. Solo così i miei pensieri potevano diventare leggi, leggi, leggi, leggi, leggi, leggi. Poi quando macchionava in testa e il cervello mi scoppiava, le orecchie si attuppavano, tuttavia tornare come prima, tutto torna sempre piccome. E invece no, e invece no, perché trasevi tu, mi pigliavi i picavigli e mi dicevi: Bionno, forza, che pure a testa sotta si può giocare, che pure a testa sotta si può correre. Chi mano in terra per intall'aria, con sangue in testa e lacrime all'occhio, senza paura di cadere, senza paura di farmi male, io e tu, tu e io uguali. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tornasti? Ma che ci facessi tutto sto tempo da fora? Oh, non ti facessi sentire proprio, ah? Ma che sei fatto sicco? Mimo, un regalo mi potevi portare, però, ah, così. Mimo, sei fatto sicco, che fa un tenaramo a mangiare down? Tu facevi un concorso. Mimo, così, io sapevo che tu tornavi. Perché chi stai a tua casa? È inutile furriare, perché tanto tu catto innare. Mimo, così, però, sei fatto sicco. Bionno, devo fare un giro in tuo motorino. Mi cuci, non aspettavo altro. Cuci, cuci, da dire una cosa, ti feci una sorpresa. Quando tu non c'eri, mi pigliai il tuo motorino. Sì, sì, non ti incazzare però, non ti incazzare, perché ti volevo fare una sorpresa. Io ci ho imparato ad andare sopra il tuo motorino. Ah, cioè, ci carei 4-5 volte, però ora ci usaccio buttare. Non ti incazzare, non ti incazzare. Vieni con me che ti faccio vedere. No, Bionno, lascio cacaremo. No, no, no, no, cuci, ti porto io, ti porto io. No, no, a te, a Bionno, a tanto, a racio, Bionno. No, no, cuci, fatte poi tardi che ti porto io. Lasciate mano, Bionno, lasciate mano. No, no, Aracio, cuci, cuci, cuci, cuci. Porto io, Bionno, Aracio, cuci, lasciate mano, lasciate mano. Attento, Bionno, attento, attento, Bionno! Tomaci diceva sempre a me, Maci, ovire, U signore ti rette un figlio asino, ma quanto amore ti dà, quanto? E io chisto ci risse a Tomaci. Ozzì, non avemo a chianciri, anzi, avemo a ridere per stu bello figlio, per stu bello figlio che tarato, signore, manco mi feci barrare, che mi rette una boffa in ta bucca, mi feci nascere lo sangue. Allora io mi nevi nella mia camera e mi mise a testa sotto e pensava che pure tu, un tuo cielo, stavi a testa sotto, e che io e tia ne stavamo tale anno, occhi cu occhi, capiddi cu capiddi, che io non ti potevo scuidare, perché si scordano solo chi due i pensieri, un anno, e io di tia tutto mi ricordo, tutto, tutto, tutto, tutto. Poi, la testa ancora che mi bommiava, a cominciare a tagliare tutti chi erano in ta casa, Memaci, Chiancia, Tomaci, Chiancia, Ito frati, Ito soro, Vito, Vito non chiancia, Rosi, chi da chiancia, tutti i picciutteggi che giocavano con Noaci, tutti nivuri, cull'occhi nivuri. Che facciladie! E ci feci una bella risata. E ci ha cominciato a tagliare tutti con l'occhio toitti. Tutto aveva tornato come a prima. Tutto torna sempre per com'è. Così ma tu ora non ti scantare perché io di te mi ricordo e poi io ora sono a posto perché la pistola mi porto sempre con mia, a motorino saccio pittare mi faccio scrimanto menso, tu ora a pensare che invece sei nel paradiso in mezzo all'angeli che ti aiutano tutti pittia, tutti biondi con gli occhi azzurri, e tu nivoro con gli occhi nivori. Solo. Così. Ama giocare a moccia a moccia. Tu però stavolta a moccia di buono. Uno. Rui. Tre. Quattro. Cinque. 6 7 8 9 10 Accopiglio per